e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e soprattutto a te, Deborina, che mi hai preparato davvero una trasferta coi fiocchi. Non sono stata abbastanza brava con le condizioni meteorologiche, l'anno prossimo mi impegno di più. Però, insomma, noi siamo qua anche in una giornata un po' piovosina, uggiosa, sì, direbbe all'IT Forum di Rimini, una manifestazione dedicata ai mercati finanziari, risparmio, consulenza, ma soprattutto trading online. Allora, se volete venire a trovarci, noi siamo qua, vi diamo le coordinate. Ingresso B, stand 20 al Pala Congressi, insomma la vecchia fiera di Rimini. Esatto, non andate in quella nuova perché là tra poco, l'ho già detto ieri, esatto, c'è Rimini Wellness che è un'altra cosa. Lo sai che ieri ti hanno cercato in molti perché anche in questo contesto, come c'è già successo al Salone del Risparmio, troviamo tante similitudini fra la gestione dei soldi e l'impostazione del nostro stile di vita. Ormai so. Il cuore denari è fatto da apripista e tutti copiano, perché effettivamente star bene con il corpo significa star bene un po' con tutto, e se stanno bene anche i soldi, allora facciamo bingo. Esattamente. Però d'altra parte tu guarda, la vicinanza sarà la vicinanza, sì, sarà tua. La conduzione di cuore denari, sì. Sei in ottima forma. Vabbè. Perché anche sei nel tuo, direi, ambiente ideale, perché mercati finanziari e mare direi che sono un po' la tua seconda casa. Mm-hmm. E allora, sai che ho letto una notizia che dice che il colore azzurro del mare è stato oggetto di uno studio dei ricercatori dell'Università del Michigan, e hanno detto che è proprio il colore perfetto per rilassarsi, stare bene, quindi la prossima trasferta la facciamo dai Navigli di Milano. Benissimo, in realtà mi sa che la prossima che ci tocca è a Trento, al Festival dell'Economia, e lì tanto mare mi sa che non c'è. Ma lo troveremo, l'azzurro del cielo. Esatto, voilà. Rassegna stampa. Allora, apriamo la rassegna stampa di cuore. Voglio segnalarvi un appuntamento importante. Domani si celebra la giornata europea per la lotta all'obesità. Una giornata che ci fa fare un po' i conti. Li ha già fatti anche Osserva Salute, e ci ha raccontato che i numeri del sovrappeso e dell'obesità continuano a crescere, dati che non pesano solo sulla nostra salute. No. L'obesità è un fattore di rischio importante per molte malattie, ne abbiamo parlato tanto, ma non voglio parlarvi di questo, ma voglio dire a Deborah che i costi diretti per l'obesità in Italia sono stati stimati a circa 23 miliardi di euro. Wow. E sembra che il 64% di questa cifra venga speso per l'ospedalizzazione. Allora, noi vi abbiamo dato tanti consigli per mantenere o per ritornare in forma. Sulle pagine di Cuore Denari trovate come calcolare l'indice di massa corporea, potete farlo anche, ci sono tanti siti, digitate, mettete il vostro peso espresso in chili, il quadrato all'altezza espresso in metri, e dividete, si ottiene un numerino. Se è superiore a 25 a 30 rientriamo nell'area del sovrappeso obesità, se è tra i 18.5 e i 25 promossi, perché rientriamo nella fascia del normopeso. Allora, Deborah, rimaniamo sempre in ambito europeo. Bene. Perché da oggi entrano in vigore in tutta l'Unione le nuove norme sul fumo che Bruxelles ha elaborato 2 anni fa con una direttiva specifica e che il nostro paese, diciamolo, ha già applicato con il decreto legge entrato in vigore dal 2 febbraio scorso. Ce l'ha raccontato, ecco, il professor Boffi, il dottor Boffi. Sì, ce l'ha raccontato, ma noi avevamo già fatto una puntata anche perché per una volta il resto d'Europa che si allinea all'Italia. I provvedimenti principali li riguardiamo un attimo, riguardo lo stop alla vendita dei pacchetti da 10 sigarette di tabacco da meno di 30 grammi, l'introduzione di confezioni che per il 65% avranno avvertenze sulla dannosità del fumo, faremo poi una puntata per vedere se queste immagini shock funzionano, e il divieto di usare additivi e aromi per rendere il tabacco più attrattivo. L'obiettivo è noto, cercare di contrastare la diffusione del fumo, soprattutto tra gli adolescenti, che è ancora molto alta. Le statistiche dicono che un adolescente su 4 è schiavo delle sigarette. Pronti, partenza via con il weekend alle porte, molti saranno pronti a partire, anche noi, ma un italiano su 5 soffre di mal d'auto. Allora, per chi si trova a fare i conti con questo disturbo, cinetosi o chinetosi che dica, deve sapere che tutto dipende da un'eccessiva stimolazione dell'apparato vestibolare dell'orecchio. Vi suggeriamo alcune indicazioni. Dimmi un po', perché molto io quando naturale. Guida qualcun altro sto sempre male. Devo allora, sempre guidare io in auto, se no brava. Il vomitino è in agguato. Solo con me. Sì, tieni tu al volante. Allora, zenzero, uno dei rimedi naturali più noti per prevenire e alleviare la nausea, ma è anche un ottimo digestivo, allevia dal mal di testa. Provate a bere una tisana allo zenzero prima di partire, oppure provate a portarvi dei pezzetti di zenzero fresco da masticare, funzionano anche le caramelle allo zenzero. In alternativa, però, se non volete bere o masticare, potete annusare, quindi 2 o 3 gocce di oli essenziali di zenzero, di menta piperita su un fazzolettino e respirare l'aroma al momento del bisogno e voilà, potete venire a trovarci a Rimini, salite in macchina, venite a trovarci, il mal d'auto non sarà per voi un problema. E allora andiamo adesso alla rassegna stampa di Denari, che come sempre apre con un punto della situazione in borsa questa mattina. Dopo una serie di giornate negative, oggi finalmente torna il sereno. Il venerdì appare orientato a chiudere con un recupero per i principali indici azionari europei. Abbiamo Parigi in rialzo dell'1,39%, Francoforte guadagna l'1,11%, Londra più 1,56%, Milano più 1,75%. Ieri un trader che è venuto a trovarci qui nel nostro stand mi ha detto: ma Deborah, voi non dedicate mai sufficientemente attenzione a quello che è successo la sera prima sul mercato americano. Eh sì, perché per noi sembra ormai una notizia straarchiviata. Allora oggi accuratamente ci prendiamo cura anche degli indici statunitensi. Il Dow Jones ha chiuso ieri con un ribasso di 0,5 punto percentuale, lo Standard & Poor's meno 0,37%. Mercato americano un po' preoccupato perché teme che arrivi a giugno la stretta monetaria, che la Federal Reserve alzi i tassi di interesse. La normalizzazione sui tassi è necessaria ormai, ma insomma il mercato invece vorrebbe che si allontanasse sempre di più questa prospettiva, e peraltro anche di questo parleremo oggi nel corso della nostra trasmissione. A proposito di tassi e politica monetaria, potrebbe essere pronta a varare nuovi stimoli monetari la Banca Centrale del Giappone, e su questa prospettiva oggi Tokyo ha chiuso con un rialzo dello 0,57%, e abbiamo un po' Tokyo sotto i riflettori, anzi il Giappone settentrionale, perché c'è questa località che si chiama Sendai. Ti piace? Molto, la conosco. Ci sei stata, ecco, certo. Ci sei andata con i ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei paesi del G7, sì, che si sta svolgendo proprio a Sendai in queste ore. Peraltro, per quello che riguarda Milano, volevo solo segnalare i migliori titoli questa mattina. Vanno bene tutti i titoli bancari, va molto bene Unicredit, più 5,80%. Questo gruppo potrebbe essere costretto a fare un nuovo maxi aumento di capitale, ma in realtà su qualche giornale stamattina circola la notizia che potrebbe scongiurare l'operazione straordinaria di capitale, magari cedendo quote di Fineco o delle sue attività internazionali. Più 5,80% intanto per il titolo in borsa. Va bene Banca Mediolanum, più 3,80%, Iux e Net-a-Porter, Pop Emilia Romagna, Banca Monte dei Paschi, sono tutti in rialzo di circa 3 punti. Allora, è una stagione densa di trasferte per noi di Cuore Denari. Prima di questi giorni a IT Forum di Rimini, lo ricorderete per chi ci ha seguito in questa peregrinazione per tutta Italia, siamo state anche a Parma. Siamo le donne con la valigia. Esatto, e abbiamo anche mangiato bene. Proprio da Cibus arriva una buona notizia che mette insieme il Cuore Denari, per cui oggi, anche se con qualche giorno di ritardo da Parma, l'ho voluta raccontare oggi. Pensate che sono state raccolte dal Banco Alimentare 13 tonnellate di cibo alla chiusura della Fiera Internazionale dell'Alimentare Italiano. L'hanno comunicato proprio ieri gli organizzatori. 115 le aziende alimentari espositrici che hanno donato le loro eccedenze, più altre 30 aziende che hanno aderito ai recuperi già pianificati. 17 sono state le strutture caritative che nel Parmense, che sono le strutture caritative che nel Parmense aiutano persone e famiglie in difficoltà e a cui è stato destinato tutto quanto raccolto. Vorrei potervi raccontare cosa sta succedendo in questi minuti in studio. Cosa ti è successo? Per allora, toglierti il maglioncino, allora, avevi caldo? Allora mi sono tolta il maglione, poi avevo una meno male che ho un amico qua che mi ha avvertito, perché eri un attimo ero praticamente il reggiseno, ma comunque no, essendo piattona, quindi non allora, ho dato scandalo. Ritorniamo sui, nei nostri ranghi finanziari. È stata una puntata un po' hard, un po' vivace, direi. Sì, ecco, dal un trading po' bollentina. Qua sono d'altronde molto hard i comportamenti delle persone che ci stanno venendo a trovare, perché per agire sui mercati finanziari col mordi e fuggi come fanno questi qua, in realtà un po' di hard devono averlo in corpo. Vi racconto un altro paio di notizie economiche, poi andiamo al primo approfondimento. Dai. Posso poi continuare a spogliarti. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi acquisterà efficacia il 2 giugno, il decreto che disciplina le modalità di riconoscimento del part-time agevolato, che è stato introdotto da una norma contenuta nella legge di stabilità 2016. È una misura sperimentale, ne abbiamo già parlato a Cuore Denari, ma è tutto pronto a partire, che vuole incentivare l'uscita graduale dall'attività lavorativa ed è una misura alla quale possono ricorrere i lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, quindi 20 anni di contributi, e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, quindi possono andare a lavorare in part time e magari, speriamo, lasciando il posto ad altri ragazzi che entrano in azienda. Infine sono in arrivo le nuove norme, potrebbero essere in arrivo nuove misure per la voluntary disclosure, è un termine inglese che usiamo da qualche tempo per identificare i procedimenti per il rientro dei capitali dall'estero, quelli che in passato abbiamo chiamato gli scudi fiscali. Questa nuova misura potrebbe arrivare entro luglio con un potenziale incasso stimato dal governo tra 1 e 2 miliardi di euro. Let me just preface this by saying that these are my views. Innanzitutto ci tengo a precisare che sto per esporre le mie opinioni personali, non quelle della Federal Reserve e nemmeno quelle della Bank of Atlanta. Io lavoro come consulente del presidente della Bank of Atlanta e una delle sue maggiori preoccupazioni in questo periodo è sicuramente il possibile risultato del referendum in Gran Bretagna, ovvero la cosiddetta Brexit e di quelle che potrebbero essere le conseguenze. Ci chiediamo effettivamente se la Gran Bretagna sia davvero seria nella sua intenzione di lasciare l'Unione Europea, perché questo a sua volta sicuramente avrà un impatto su quelle che saranno le politiche monetarie da qui in avanti. Quindi, in generale, le nostre maggiori preoccupazioni sono quelle legate ai rischi politici. E in questo momento, forse il rischio politico più importante è la minaccia di un'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Allora, quello che avete ascoltato e che ho molto orgogliosamente intervistato ieri era Mark Jensen, ricercatore e policy advisor della Federal Reserve di Atlanta. Proprio in questi minuti Mr. Jensen sta presentando qui all'IT Forum una maxi indagine condotta da lui, dalla Federal Reserve di Atlanta. Lui è proprio specializzato nell'analisi del rischio su un pacchetto di 5.500 fondi di investimento che ha trovato nella sua analisi condotta in un arco temporale di 40 anni dal 1961 al 2001, che ha trovato praticamente largamente inefficienti. Io su questo punto ci tornerò nelle prossime puntate, certo. Nicoletta, di Investire Informati, ci racconterà come ha condotto questa indagine, come l'ha presa anche l'industria del risparmio gestito americana, che praticamente è stata bocciata in toto, e quindi sicuramente noi ce ne occuperemo. Per la puntata di questa mattina ho voluto prendere queste sue considerazioni invece sui rischi di mercato che in questo momento devono un po' preoccuparci. Allora gli ho chiesto cosa dobbiamo temere: l'aumento dei tassi di interesse, la volatilità sui mercati azionari, la bolla del mercato obbligazionario. Lui mi ha detto, come avete sentito, e no, attenzione signori miei, la Brexit è un rischio molto importante. Allora, con il nostro ospite che ci ha raggiunto, che intanto saluto, Pietro Vantaggiato, analista di Active Trades, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Analizzeremo queste considerazioni e faremo un po' un punto della situazione su quanto Brexit o no appunto deve preoccuparci da qui a giugno, quanto la dobbiamo temere, come ci possiamo proteggere anche come piccoli risparmiatori e che tipo di conseguenze ci saranno a seconda del responso chiaramente di questo referendum britannico, da seconda del responso che emergerà. Adesso però possiamo sentire la pubblicità e il traffico, ma torniamo nel giro di pochissimi istanti. Cuore e denari. Andiamo. Paolo Corleone non mi sta mai attento con la regia. Quando siamo in trasferta questi ragazzi ci si distraggono sempre con tutto il via vai che abbiamo fuori dal nostro gabbiotto. D'altra parte, sai, ci sono anch'io. D'altronde, che attiri come il miele le api. Esatto. Così, perché insomma. Allora, ritorniamo un po' a parlare dei mercati. Ieri abbiamo avuto questo signor Federal Reserve che è venuto a trovarci, quindi siamo state molto contenti di poter realizzare questa intervista. E la sua preoccupazione, come avete sentito, anche dall'altra parte dell'oceano, è per questa Brexit. Allora, intanto, Pietro Vantaggiato, analista di Active Trades, anche per spiegare ai nostri ascoltatori che noi non intervistiamo qui all'IT Forum il primo personaggio che incontriamo sulla strada e con il quale abbiamo bevuto il caffè poco prima della diretta. Ci racconta un po' che cosa fa la vostra società? È uno dei tanti broker di un certo peso, insomma, che troviamo sul mercato e con i quali è possibile fare trading online. Siete proprio i protagonisti assoluti di questa manifestazione. Active Trades, fin dalla fondazione, ha conosciuto una rapida crescita ed è diventata uno tra i leader del mercato per la negoziazione delle Forex, quindi le coppie di valute. Sì, no, prego, stiamo... Insieme ai derivati, quindi CFD, su indici, tassi di interesse, azioni, materie prime e anche metalli preziosi come per esempio l'oro e l'argento. No, sto chiamando i nostri tecnici perché devono alzarmi il microfono del dottor Vantaggiato. Ecco qua, che era un pochino basso. E quindi insomma broker indipendente, peraltro voi avete sede a Londra ma siete naturalmente anche qua in Italia perché volete curiosare sulla vostra... Alcuni anni fa abbiamo aperto una sede a Milano per essere appunto più presenti e più vicini ai clienti italiani. Senta, prima di parlare di sterlina e Brexit, ma chi è il vostro, se è possibile tracciare un profilo, magari lei non fa il commerciale, fa l'analista, non lo conosce, chi è il trader particolarmente impegnato sulla vostra... Esiste la possibilità di tracciare un profilo, opera soprattutto sulle valute, sulle materie prime, su azioni, obbligazioni? Senza dubbio il cavallo di battaglia è sempre il Forex, questo perché è un mercato... È un mercato che è aperto 24 ore su 24 dalla sera della domenica. E questo diciamo che è un pregio ma anche un difetto del mercato. È un pregio ma anche ecco. un difetto, però consente a chi ha anche altre attività durante la giornata di potersi dedicare, cosa che non può fare invece per esempio con le materie prime che hanno orari ben determinati di apertura e chiusura certo. quotidiana delle negoziazioni. Il mercato di riferimento è negli Stati Uniti appunto per quello che riguarda le materie prime esatto. per cui diciamo quantomeno abbiamo quel punto di riferimento. Allora, dottor Vantaggiato, andiamo al tema sul quale abbiamo appunto lanciato questo nostro blocco di trasmissione. Ha sentito quello che ha detto Mark Jensen e ha detto che in sostanza ci chiediamo quanto la Gran Bretagna sia seria nelle sue intenzioni di uscita dall'Unione Europea. Avendo organizzato un referendum, noi riteniamo che il problema lì è abbastanza sentito non solo dalle istituzioni ma anche dalla cittadinanza, dalla popolazione, ed è un problema che comunque del quale si parla da tempo. Allora, quanto il mercato è realmente preoccupato di questa prospettiva di uscita di scena dall'Unione Politica Monetaria del Regno Unito, a suo avviso? Il mercato, diciamo, che cosa sta dicendo in questo momento? Innanzitutto i timori di Jensen sono fondati per una serie di motivi. Innanzitutto in Gran Bretagna i referendum sono particolarmente sentiti, hanno un senso civico molto alto. Secondariamente era una battuta indiretta al nostro paese dove invece diciamo, le situazioni elettorali ultimamente sono sempre più desertate. No, per carità, però a parte questo. E se, vivendo a Londra conosco l'attaccamento istituzionale del popolo britannico, quindi un loro pronunciamento non può essere sottovalutato né derubricato a folklore in questo senso. Secondariamente, i due temi, la Brexit, l'uscita, o la Remain, quindi il rimanere all'interno dell'UE, sono due posizioni che stanno vivendo un testa a testa piuttosto serrato. Anche se ultimamente, leggevo un articolo non più tardi di ieri, i bookmaker inglesi danno la Remain in un certo vantaggio. La Remain la chiamano, Remain, come Brexit e Remain. Esatto, incredibile. Sì, i britannici amano molto questi giochi di parole. Per esempio, la Remain era quotata a 1,20, quindi molto vicina alla parità, mentre la Brexit era quotata intorno a 4. Quindi, ma è anche normale perché comunque la maggior parte degli analisti a livello globale dà la Remain come l'unica soluzione possibile per evitare conseguenze che sarebbero comunque pesanti, perché uscire dall'Unione Europea, detto in parole povere, non significa ok, è stato bello, arrivederci amici. Significa, ce lo spiegava ieri un gestore di fondi, rimodulare per esempio tutte le relazioni commerciali fra tutti quanti i paesi, e quello creerà un movimento innanzitutto non indifferente. Significherebbe dover rifare letteralmente da capo tutti i trattati e i negoziati, innanzitutto con l'Unione Europea, e l'Unione Europea non agisce a livello di singolo paese membro, agisce in blocco. E queste sono cose che non si fanno in 5 minuti. Un singolo trattato può richiedere anni per essere stipulato. L'Unione Europea stessa non è stata fatta in 2 anni. È stato un processo assai lungo. Esatto, e peraltro ancora incompleto. Direi. E peraltro ancora in divenire. Secondariamente potrebbe esserci per esempio una volatilità alta all'approssimarsi del referendum. Questo perché i mercati, per definizione, sono sensibili a qualsiasi alito di vento. Quindi, man mano che si riduce il tempo disponibile per arrivare alla consultazione, i mercati possono fibrillare. Per quanto anche negli ultimi anni, a volte i mercati hanno dimostrato una capacità di reagire in maniera composta anche a simili eventi. Sì, magari arrivano un po' a sorpresa dei movimenti piuttosto ampi, magari di fronte a fatti che noi non riusciamo neanche ad interpretare nella loro portata, poi di fronte invece magari a notizie che teoricamente, secondo noi, potrebbero portare destabilizzazioni forti, in realtà reagiscono in maniera più composta. Effettivamente i mercati sono sorprendenti da questo punto di vista. Andando più sul tecnico, le conseguenze negative sarebbero innanzitutto per l'Unione, per il Regno Unito, certo. Scusate, innanzitutto perché gli altri paesi non sarebbero più incentivati ad investire nel Regno Unito, con una conseguente perdita anche di posti di lavoro. Si stima che si potrebbero perdere fino a 50.000 posti di lavoro, ed è un numero decisamente importante. Questo poi di riflesso avrebbe ripercussioni negative anche sulla valuta, la sterlina, che ha da anni tradizionalmente un ruolo quasi di valuta rifugio. Quindi intaccare questo status avrebbe grosse ripercussioni sulla moneta, e anche poi in termini di correlazioni con Certo, no, stavo pensando che però poi tutta la volatilità sulla moneta poi magari fa il gioco di voi broker che vi interessate particolarmente al trading online su questa asset, no? La volatilità è il respiro del mercato, non... E infatti, e quindi insomma abbiamo un minuto di tempo prima dei saluti, dottor Vantaggiato. Come ci dobbiamo, così un po' un suggerimento da dare a un piccolo risparmiatore che magari in questo momento è avventurato sul terreno del trading online, opera sulle valute, come muoversi in questo rapporto di cambio? Qual è tra l'altro quello più importante, euro sterlina o dollaro sterlina? Difficile fare una classifica fra le valute, sono tutte importanti. Un consiglio che si può dare è quello di tenere d'occhio il mercato sempre, ponderare prima di prendere qualsiasi decisione e non avere e poi seguire un po' le notizie, magari anche notizie, cuore denari. Cuore denari, bravo, mi piace. Grazie a Pietro Vantaggiato, la rilasciamo tornare al suo stand che è proprio alle nostre spalle. Sì. Buon lavoro, noi abbiamo adesso il giornale radio, credo. Certo, poi torniamo insieme ci faremo anche un giro in bici. Davvero? Sì, andiamo, via. Preparati. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Sotto questo sole, bello pedalare, sì. Sì, anche senza sole, dobbiamo pedalare anche con la pioggia, guarda. Ma non abbiamo raccontato delle mille miglia qui a Rimini, che ci siamo imbattute anche in questa manifestazione tanto per... abbiamo incontrati tutti. Allora, noi cosa facciamo? Gonfiamo le gomme, oliamo la catena e montiamo in sella, perché abbiamo pensato di proporvi una pedalata. Andremo anche noi un po' su e giù come i mercati con la nostra bicicletta. D'altronde ci sono tante buone ragioni per farlo, per spostarsi da un luogo all'altro, per rimettersi in forma, per divertirsi, per perdere peso, per viaggiare e pensare, perché il pedale aiuta. Molte idee sono nate proprio sulle due ruote, perché le idee buone nascono, ormai è dimostrato, quando i muscoli lavorano, la mente si rilassa e produce idee, quindi creatività. E voi, allora, che tipo di ciclista siete? Ve lo chiediamo al nostro numero verde 800 24 00 24. Usate la bicicletta come mezzo di locomozione? Siete dei ciclisti amatoriali, di quelli che inforcano la bici e macinano chilometri, oppure siete ciclisti un po' improvvisati, quelli della domenica? E soprattutto, che bici usate? State pensando di acquistarne una? Vedo un signore che mangia una banana, che è il frutto ideale per il ciclista. Eccolo lì, lo salutiamo. Allora, 800 24 00 24, oggi in studio è venuto a trovarci Davide Balboni, che è presidente della Regione Emilia-Romagna, della Federazione Ciclistica Italiana ed ex allenatore delle nazionali di ciclismo. Grazie, è venuto in bici? No, in macchina. Vede. Chissà se sarebbe mai venuta l'IT Forum di sua spontanea iniziativa, di sua spontanea volontà. Credo di no. Grazie allora, grazie. Cuore denari dà sempre delle occasioni per scoprire qualche cosa di nuovo che può farci stare bene. E può renderci anche, esatto. No? Può farci stare bene sul fronte della salute e su quello dei denari. Tra l'altro, perché parliamo di bici? Beh, lo spunto ci è servito da un piatto d'argento dal Giro d'Italia, ormai siamo al buono, no? Alle fasi più difficili, alle salite. Però domenica parte anche la Nove Colli, due più di Roma. Esatto, Nove Colli. Ma tutto sai, ma hai parlato con Carlo Genta prima di venire qua? No, mi sono fatta dare un po' di informazioni da Davide per fare quella un po' preparata. Sai com'è, ci si prepara un po' prima di affrontare una puntata e anche una salita. Corretto, sì, bisogna anche allenarsi bene. Quindi domenica parte la Nove Colli di Cesenatico, che sono 13.000 partenti che vengono da tutto il mondo, una manifestazione veramente importante, la più importante d'Europa, e questo dà il significato anche di quanto sia importante la bicicletta. Bisogna, naturalmente questa è dedicata a chi in bicicletta non va per caso, esatto, ecco, ma si allena. Noi non vogliamo oggi parlare dei ciclisti naturalmente professionisti, ma vorremmo un po' allargare il nostro così tema alle persone, proporlo anche alle persone che magari possono trovare nella bicicletta anche un'occasione per divertirsi e per rimettersi in forma. Tra l'altro c'è un rapporto dell'Ufficio Studi della Confartigianato che rileva che sono ben 743.000 gli italiani che hanno scelto proprio la bicicletta per andare al lavoro. Attenzione, quindi, che arrivo anche io. Un mezzo di trasporto ecologico, tra poco arriverà in bici anche Debora. Ma Davide, per chi volesse, decidesse di scegliere proprio la bici per ritornare in forma, allora, tante volte i nostri esperti ci hanno detto che è un'attività aerobica, quindi il benessere cardiovascolare è assicurato, ma tu che i ciclisti li hai allenati, li vedi e il mezzo lo conosci bene, come si dice, quali sono magari le occasioni e le condizioni che potrebbero facilitare questo nostro incontro con le due ruote e soprattutto farlo rendere? Esatto, ma io credo che innanzitutto la tecnologia moderna abbia dato una grande mano sotto questo aspetto con le biciclette elettriche. È un mezzo molto economico, perché tra l'altro non comporta il costo del bollo, non comporta l'assicurazione, c'è l'obbligo del casco, che questo è sempre a voi piace molto la sicurezza, sì, come casco, federazione. Esatto, tra l'altro anche vedo anche a volte degli utenti della strada con biciclette senza fanali, senza situazione di farsi riconoscere per strada. È molto importante anche segnalare il fatto che con pochi euro si compra un fanale anteriore e posteriore, perché tutti pensano a vedere davanti, ma è importante anche farsi vedere da dietro. Dicevo, la bicicletta elettrica è quella che probabilmente darà lo sviluppo finale, perché andare in Europa, per esempio in Europa del Nord, tantissima gente va al lavoro in bicicletta, e quindi per noi questo è un fatto molto importante. La pedalata servoassistita, tra l'altro, è anche un aspetto molto femminile, perché potrebbe essere una bella idea andare insieme in bicicletta col marito allenato, la moglie non allenata, con la bici elettrica. Vanno insieme in salita, è una cosa bellissima. Magnifico. O il contrario, perché mi hai fatto una cosa, anche le donne adesso, certo, stanno ottenendo degli ottimi risultati anche sulle due ruote. Ah, vero? Tra l'altro il ciclismo femminile è quello che sta dando maggiore soddisfazione alla federazione. Vedi quante ne so. Allora, e ne sanno anche molti nostri ascoltatori, però Davide, io vorrei cercare di individuare dei profili. Allora, c'è chi usa la bici per spostarsi in città. Ci sono città più o meno fortunate per i ciclisti, Milano non lo è tanto per le piste ciclabili, però insomma arriveremo, e ci sono invece delle realtà, penso Ferrara, dove praticamente uno nasce già sulla bici, no? Si muove più che con a piedi sulle due ruote. Detto questo, come ottimizzare per stare proprio in forma e prendere tutto il meglio dalla bici per uno che la usa per degli spostamenti quotidiani, e quindi per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, per andare a trovare l'amica? Quali sono i consigli per il ciclista, tra virgolette, metropolitano, insomma, cittadino? Il ciclista metropolitano, innanzitutto, oltre alla sicurezza, deve pensare che la bicicletta è un mezzo di trasporto, quindi come tutti i mezzi di trasporto vanno mantenuti in ordine, quindi la catena ben oliata, come abbiamo detto prima, essere visibili sulla strada, molto, certo, molto importante, e soprattutto cercare di trovare una bicicletta con il cambio. Tanta gente pensa di abitare in città e quindi di poter prendere la bicicletta senza il cambio. In realtà poi ci sono i cavalcavia, c'è il vento contro, che è un aspetto che molti sottovalutano. Quindi una bella bicicletta col cambio non costa tantissimo e quindi si può esattamente andare su questo aspetto. Andiamo a Rossana della provincia di Milano e poi vorrei chiedere agli ascoltatori, ma poi lo chiediamo naturalmente a Davide, cosa vuol dire avere una pedalata rotonda? È come quelli che fanno i sommelier, no? Il gusto rotondo del vino. Vediamo se ce l'ha Rossana della provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Rossana, eccola lei, eccola noi. Lei c'è la rotonda un po' più a scatti, un po' più quadrata, no, come no, ce l'ha la pedalata? No, io sono abituata a pedalare perché vado a lavorare tutti i giorni in bicicletta, abitando vicino a Milano, è una città adatta per andare a lavorare in bicicletta. Può anche dircela, perché noi un po' la conosciamo la provincia di Milano. Senta, Rossana, ma ecco, andando in bici al lavoro, vorrei farmi un po' i fatti suoi, ha visto dei miglioramenti, non so, il gluteo è rimasto un pochino più scolpito, il muscolo più tonico, la pancia è andata giù, cioè anche con dei piccoli spostamenti, delle, esatto. No? Questa è un'attività che noi non consideriamo come allenante, ma se praticata tutti i giorni dà dei risultati. Rossana, è così? Sì, sicuramente. Tra l'altro volevo collegarmi a una cosa che avete detto prima. Io lavoro in un, diciamo, in un ambito abbastanza creativo e quando ho delle idee, le mie migliori idee le ho in bicicletta. Tant'è vero che io scrivo mail scrivendo idee in movimento. Quando mando dei progetti scrivo idee in movimento. Quindi guardi che non è la sola, Rossana. Tra l'altro noi dovremmo proviamo a pedalare, Deborah. Ma pedaleremo anche adesso, noi. Esatto, perché ci sono veramente anche degli studi che hanno fatto e che dimostrano proprio che quando il muscolo è impegnato, e può essere impegnato magari una pedalata rotonda, il cervello si accende. Rossana, grazie per averci chiamato. Davide, pedalata rotonda, qual è la pedalata comunque allenante? La pedalata allenante è quella che permette al ciclista di andare a avere un lavoro costante e continuativo. La famosa pedalata rotonda è quella che, diciamo così, è una pedalata fluida, senza grande sforzo da parte diciamo, di chi va in bicicletta, e quindi riesce a mantenerla per lungo tempo, perché per avere i risultati che si parlava prima, appunto, della mantenere il tono muscolare intatto, è la quotidianità della bicicletta, quindi anche andare al lavoro, fare anche pochissimi chilometri tutti i giorni, è qualcosa di veramente importante. Allora, pensiamo invece a chi, Davide, e vorrei proprio dei consigli qua, saliamo un pochino più di livello, a chi è un ciclista amatoriale, quindi nel weekend, e non solo, si allena proprio sulle due ruote e fa è impegnato proprio in modo quasi da atleta. Allora, io vorrei che tu suggerissi un po' dei trucchetti, delle strategie per ottenere il meglio da questo tipo di allenamento e soprattutto per evitare rischi. Esatto, allora, i trucchi in realtà sono molto semplici. Come dicevo pedalare. Prima, come dicevo prima, la bicicletta dà enorme soddisfazione, se parliamo dal punto di vista dei risultati, se è una cosa quotidiana. Sì. Nel senso, la bicicletta, a differenza di altri sport, deve essere fatta in maniera almeno tre volte alla settimana. Quindi sì, questo weekend, sabato e domenica, trovare anche adesso che le giornate si sono anche allungate, trovare anche un pomeriggio da fare, anche semplicemente un'oretta. Sì. Questo sicuramente dà continuità al lavoro muscolare, perché è il muscolo della bicicletta, il muscolo protagonista della bicicletta, è un muscolo che ha bisogno di essere quotidianamente allenato. E quindi sicuramente per ottenere questo. E un piccolo segreto, ecco, che potrebbe essere interessante, che il ciclista raramente lo fa, è stretching. Ah. Lì cadono tutti sullo stretching. Esatto. Io mi fermo allo stretching invece. No, il ciclista è il mio forte. È già una cosa interessante. E vedi, è ognuno. E il ciclista ha una posizione che, diciamo così, per andare in bicicletta è contratto, cioè è piegato, aerodinamico e quant'altro. Quindi la parte, diciamo, dei muscoli dorsali, piuttosto anche che il retto femorale, quindi la parte, diciamo, dietro della coscia. Bravo, per capirci, questa va allungata tutti i giorni. Basterebbe anche semplicemente qualche minuto tutti i giorni per poter allungare il muscolo. Un muscolo allungato, un muscolo tonico, è un muscolo che ha irrorazione sanguigna, e quindi quello porta sicuramente risultati, perché dove c'è circolazione toglie grasso, toglie anche tutte le allora tossine. Mi spieghi in modo chiaro per tutti, perché l'allungo del muscolo del ciclista posteremo così con i tuoi consigli, va bene anche a chi la bicicletta la usa solamente per spostarsi, per andare a fare la spesa. Bisogna allungare il muscolo, come si fa? Allora, praticamente possiamo trovare nella nel letto, nella sponda del letto, così c'è dalle mie parti. Anche dalle nostre, anche dalle mie, mettere, nelle mettere marche. Il tallone sopra questa sponda, dobbiamo essere attenti che questa sponda del letto deve essere più alto dell'anca, quindi avere questo angolo, poi se no va bene un tavolo, va bene anche un tavolino, pronto che sia più alto della nostra anca, e andiamo a prendere la caviglia piano piano, senza bisogno di forzare all'inizio. All'inizio troveremo qualche difficoltà per chi non lo fa mai, poi ci accorgeremo che con l'andare dei giorni andremo sempre più vicino alla gamba, e questo alternato nella gamba destra e gamba sinistra. Quindi appoggiamo e andiamo giù. E questo per la parte, diciamo, della coscia posteriore, per essere semplici. Per invece la coscia anteriore, basta prendere il tallone dietro la coscia e tirarlo dietro. Cioè, quindi, piegare la gamba e col tallone cercare il gluteo, che se è andato un po' giù con gli anni lo trovi che è un piacere. Esatto. Andiamo a Vincenzo. Buongiorno Vincenzo, prima di passare la linea poi a Deborah. Benvenuto. Buongiorno. Dunque, niente, ci racconti, Vincenzo? Questa bici non ho capito. No, vada, cosa voleva raccontarci? Pedali, Vincenzo, allora, come si dice. Dunque, io la bici la uso tutti i giorni. Ma l'estate preferisco fare proprio delle vacanze vere e proprie. Ho girato da Budapest a Rotterdam, dall'Alto Adige fino a Lisbona. E vedi, domani è una vacanza. E domani farà la Nove Colli? Però domani la faccio di corsa. Vedi, perché c'è giù la dalla versione podistica. E quindi io domani faccio 202 chilometri, se ce la faccio a finirla. Caspita, l'anno scorso. Senta, Vincenzo, posso dirle di darci sue notizie? Ci scriva, non mi faccia stare in pena, mi mandi un messaggio WhatsApp. Foto, com'era quando è partito e com'è quando è arrivato. Vincenzo, mi raccomando, contiamo su un suo piccolo diario di viaggio, ce lo fa? Senz'altro. Grazie Vincenzo, ci contiamo, in bocca al lupo. Davide, prima di un minuto. Il vero ciclista che cosa si porta come spuntino? Ah, come spuntino la classica banana, questo ormai è un dato acquisito e storico, però mi permetto di dire che di non improvvisare, nel senso che magari la banana a volte può dare qualche problema, e quindi un piccolo consiglio di provarlo in allenamento. Se va tutto bene, poi lo può trasformare anche in gara. Che problemi può dare? A volte la banana può dare problemi di digeribilità. Sì, perché quindi ti si piazza sullo è molto stomaco. Ricca di potassio e quant'altro. Però normalmente è questo. Però ci sarebbe anche un altro piccolo segreto. Certo. Frutta disidratata, albicocca. E l'albicocca. Allora, ciclisti, puntate sull'albicocca, sullo stretching. E la banana, sì, ma attenzione, provate prima, durante l'allenamento, prima della gara. Davide, verremo con te al prossimo IT Forum, verremo qua in bici. In bici. Ottimo. Però tu ci alleni. Alla grande. Grazie. Buona Nove Colli. Grazie, buona giornata. Una monetina a te, una a te, una monetina pure a te. Così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire. Una per trovarti, l'altra per sparire. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a lei. Così fanno sei, una monetina per poterti dare quello che mi hai chiesto. Sì, la stiamo facendo sentire un po' tutta la canzone, perché qua in studio perché c'è... magari le monetine arrivano, ma noi intanto dobbiamo far arrivare esatto, i nostri ospiti. Esatto, c'è l'inevitabile movimento, appunto, di passaggio di cuffie da un ospite ad un altro, e siamo ben contenti adesso di questo passaggio che è avvenuto, perché ci ha raggiunto qui in studio un amico di Cuore Denari. È un amico che noi disturbiamo sempre quando, per esempio, sui mercati vediamo qualche movimento particolarmente forte sull'oro, sul mercato appunto delle materie prime, il nostro re delle materie prime. In realtà Maurizio Mazziero Resercio, intanto buongiorno. Buongiorno. Grazie, fa buongiorno tantissime cose, ha un sito, un blog molto seguito, e devo dire gli dobbiamo riconoscere questo merito. Quando sui giornali noi leggiamo che il debito pubblico ha raggiunto un determinato record, purtroppo è sempre più alto, e quindi non è un record positivo ma purtroppo è negativo, Maurizio ha già anticipato sul suo sito questo dato almeno una settimana, due settimane prima. Per quando cui, si dice andare sull'attualità, ecco, lui sa. Esatto, lo sa prima, quindi è per questo che viene monitorato con grande attenzione, prima cosa. Ma poi ha fatto un altro lavoro molto lodevole. Da 4 anni qui, in occasione dell'IT Forum, Maurizio tiene questo corso, poi mi viene anche difficile darle del lei, perché è un nostro amico Maurizio Mazziero, ha questo corso, un convegno ricorrente che si intitola Investire secondo le logiche del buon padre di famiglia. Da questo percorso, che dura da 4 anni, è nato da pochi mesi il manuale dell'investitore consapevole. incrementa e proteggi i tuoi risparmi investendo a basso rischio. È proprio per noi, Nicoletta. Perché l'ha fatto per noi, dica la verità. Anche per noi, anche per me stesso. Ecco, anche se tu sei una buona madre di famiglia, io una buona zia di famiglia. Il padre, la prossima faremo come una madre. Comunque, vabbè, passiamo al padre. Dai. Tra l'altro, Maurizio è stato anche un ciclista. In passato si allenava molto sulle due ruote, abbiamo detto tutto. Ma tra l'altro, investire è anche un po', come dire, questione di buon allenamento? Sì, direi di sì. Bisogna pedalare per avere rendimento, questo è il modo di dire. Ma in effetti parlavamo dell'investire da buon padre di famiglia. È proprio una filosofia, nel senso che oggi con tante macchinette si tende a rincorrere il rendimento. Ahimè, il rendimento con le obbligazioni che sono a tassi a zero, se non negativi, ecco, diventa difficile. Quindi più che il rendimento in questo momento bisognerebbe guardare i rischi. C'è un'indagine pubblicata questa mattina da Isabella Bufacchi sul Sole 24 Ore, prima pagina: il 46% delle obbligazioni governative che circolano in Europa in questo momento è a rendimenti negativi. Ci dà subito un'analisi di questo monitoraggio, Mazziero, lei che il mercato obbligazionario lo conosce molto bene, quanto deve preoccuparci questa circostanza? Questa circostanza ci deve preoccupare, in qualche modo ci deve dire questo, che questi rendimenti negativi sono stati spinti per le politiche espansive delle banche centrali. E questo genera tutta una serie di problematiche. Ad esempio, proviamo a pensare a quei fondi pensioni di pensioni integrative che fanno sempre più difficoltà a cercare di raggiungere poi quegli obiettivi che sono quelli previdenziali poi a scadenza, no? Anche perché le linee molto prudenziali dei fondi pensione vanno soprattutto sulle obbligazioni governative, per cui se queste non rendono niente significa che la pensione integrativa di chi sottoscrive il fondo fra qualche anno avrà rendimenti un po' magri. Infatti, e quindi a questo punto io credo che davvero bisognerebbe pensare a una filosofia che è quella del buon padre di famiglia. Cosa significa questo? Significa che ogni volta che io vado a vedere non devo rincorrere il rendimento, ma devo cercare di rapportare a quello che è il rendimento, valutare il rischio a cui io mi sottopongo. Sì. E allora a questo punto solo se il rischio vale la candela. Ecco, allora a questo punto si può procedere con l'investimento. Ecco, questa è una grande logica. L'investimento, secondo la logica del buon padre di famiglia, significa pensare prima agli obiettivi finanziari della famiglia, poi conoscere gli strumenti finanziari con cui raggiungere questi obiettivi, o fare il percorso contrario, avere un po' di basi e un po' di nozioni finanziarie e poi mettersi a cercare gli obiettivi personali e familiari? Allora, diciamo che sono due strade, nel senso che il buon padre di famiglia, uso questo termine perché bisogna un pochettino tornare indietro con la logica della lentezza. Ma guardi, lentezza. Le dico anche un'altra cosa, il nostro esperto di beghe condominiali, l'avvocato Augusto Cirla, ci dice sempre che anche l'amministratore di condominio deve amministrare il condominio secondo la logica del buon padre di famiglia, per cui è un'autoria che va bene per tantissimi aspetti della vita personale. Perfetto, allora quindi due elementi, allora uno assolutamente l'educazione finanziaria. Educazione finanziaria che dovrebbe, l'ABC della finanza dovrebbe essere insegnata nelle scuole, fin dall'inizio i ragazzi dovrebbero abituarsi a questo, ma questo non significa necessariamente che ognuno provveda per sé, perché poi c'è chi ha più attitudine a occuparsi delle materie finanziarie e chi meno. Però in ogni caso sapere un po' di ABC significa anche quando ci si interfaccia con lo sportello bancario, con il consulente, non rimanere in come modo, degli stocco fisico. Esatto, sapere anche le domande giuste da fare più che capire completamente le risposte e le caratteristiche dello strumento finanziario. Esattamente. E poi c'è un altro aspetto che notoriamente diciamo chi è consulente o comunque anche lo sportellista bancario, il gestore, farà la fatidica domanda. La fatidica domanda è quella di dire quali sono, oltre ai suoi obiettivi in termini diciamo patrimoniali, quali sono i suoi obiettivi temporali. Ecco, tendenzialmente tutti gli investitori a questo punto sono, uno, propensi al massimo rischio, due, avere una scadenza lunghissima dell'investimento, salvo poi dopo sei mesi si sposa la figlia, c'è da acquistare l'auto, non eccetera, hanno eccetera. Proprio la concezione. Non abbiamo la concezione del tempo, del nostro tempo. Esatto. Forse. E quindi questo è il grande tema su cui dobbiamo noi essere capaci prima di fare chiarezza su noi stessi, per essere poi in grado anche di poter rispondere o comunque declinare quelle che sono le scelte di investimento. Certo. Ci metto anche una terza considerazione che magari poi analizzeremo un po' meglio dopo i mercati, che devo raccontare adesso alle 11.30. Il tema è anche capire quanto siamo in grado di sopportare le oscillazioni profonde del mercato e non considerarle come qualcosa di teorico che può accadere ma tanto non accadrà mai. Abbiamo alle spalle 8 anni di crisi molto pesante che ci hanno fatto prendere confidenza con una volatilità molto accentuata, quindi sappiamo quello che può succedere, rinfreschiamoci la memoria e consideriamo anche il fatto che può riaccadere e che questo può condizionare anche il nostro piccolo portafoglio investito. Adesso vi racconto la seduta odierna di borsa, vedo un quadro ancora positivo, un po' più rallentatore rispetto a poco fa, a tra pochissimo. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo mare. Ma sì, muoviamoci in questi mari. Il mare c'è, ma anche sui mercati, il mare che qualche volta sono un po' in tempesta, quindi dobbiamo anche muoverci. Cercando di non aggrapparci alla prima zattera che troviamo, cerchiamo un'imbarcazione sicura e allora, come dire, anche il marinaio deve essere quello capace di garantire una guida adeguata del mezzo. Ti che, vedo che si sulla muove. Zattera. Hai visto? La migliette sulla zattera con un po' di crema da sole. Su un'isola deserta, possibilmente con delle palme, tanto cocco e qualche vabbè. Banana. Esatto, e magari qualche i soldi insomma lì non ci servono. Detto questo però dobbiamo imparare a gestirli bene. Ci sta dando qualche consiglio utile questa mattina Maurizio Mazziero, Mazziero Research, che ha portato per la quarta volta, credo, a questo evento a Rimini il convegno Investire secondo le logiche del buon padre di famiglia, da cui, come ricordava all'inizio, è nato poi questo libro, Il manuale dell'investitore consapevole, edito da Oepli e scritto insieme a Gabriele Bellelli, trader e consulente finanziario indipendente, ed Andrew Lawford, analista di Mazziero Research. Allora, gli errori di chi vorrebbe comportarsi come un buon padre di famiglia, gestendo e pianificando bene gli obiettivi di vita personali e familiari, e poi però in qualche errore cade. Abbiamo già prima dato qualche spunto sul tema della modalità con cui dovrebbe avvenire una corretta relazione con l'interlocutore finanziario, quindi va in banca, impara a fare anche un po' le giuste domande prima addirittura di cercare di capire bene la soluzione di investimento che ti propone. Ma ancora prima c'è un altro problema. Noi raccomandiamo sempre di non mettere tutte le uova nello stesso paniere, quindi diversifichiamo il nostro investimento. C'è molta gente che pensa di farlo correttamente, in realtà commette molti errori, Mazziero. Quali sono quelli più frequenti? Quelli più frequenti è quello di cominciare senza un piano strategico. Dobbiamo cercare di progettare prima la diversificazione e quindi suddividere per quelli che sono i vari asset, si chiamano, quindi azioni, obbligazioni e così via. E non quindi andare piano piano a comporre un portafoglio, certo, così alla rinfusa in modo casuale. L'altro aspetto è di non cadere, quando si parla di diversificazione, in quella che è invece il frazionamento, la parcellizzazione. Cioè, cosa vuol dire? Quello di dire di spezzettare in quantità infime il portafoglio. Allora, in genere un portafoglio dovrebbe avere una ventina di titoli, se no facciamo anche fatica a controllarli. Senta, no? Quindi faccio questa parentesi, c'è un consulente finanziario che è proprio qui di fronte che sta qualche girando. Sì, no, il nostro amico Gianni Lupotto, lo dico che qua che qualche tempo fa mi ha raccontato che un suo cliente è andato da lui facendogli vedere: guarda come sono stato bravo a capire la tua filosofia, quella della diversificazione, ho in portafoglio tutti questi 20 titoli bancari. Ed è svenuto. Ecco, e questo infatti è l'altro tema. Allora, diversificazione significa non diversificare il singolo titolo, ma andare a vedere, allora, diversificazione di emittenti, no? Quindi, cioè, se è una stessa banca, io posso avere anche 20 titoli, ma sempre il rischio è quello. Dopodiché c'è il settoriale. Se io ho titoli bancari, che siano essi obbligazionari o azionari, è chiaro che il portafoglio si muoverà tutto insieme. Quindi io devo cercare anche dal punto di vista settoriale di diversificare. E poi c'è un bias, che è quello del country bias, il fatto che noi italiani siamo più propensi a investire esclusivamente in titoli italiani. Per carità, ci sono delle bellissime occasioni, delle bellissime magari anche small cap, però dovremmo cercare di allargare il nostro orizzonte e quindi mettere un po' tutto. Ecco, ultimissima cosa, proprio un flash, è che quando io prendo anche un paniere, quindi con un ETF o con un fondo globale, bisogna stare ben attenti a quello che è il peso soprattutto del mercato americano, perché se ad esempio si investe su un indice globale, quell'indice globale è al 60% sugli Stati Uniti. Poi è chiaro che se scendono gli Stati Uniti tutto il portafoglio se ne va. C'è il capitolo, lo stavo proprio scandagliando adesso, sulla finanza comportamentale di questo volume, in cui ci sono tutti gli errori di processo mentale che si compiono appunto quando si fanno scelte di investimento e risparmio. Che cos'è il peso dell'ancora? Il peso dell'ancora è quello di ancorarsi a determinati prezzi. Ci si fa un'idea un che film quello mentale. Sì, sì, è un po' come ma succede un po' a tutti, no? Io vado a vedere a quanto quota una datazione, vedo quel prezzo lì, non lo compro subito, ecco che il prezzo che io poi andrò a inserire fra un'ora, due ore o anche dopodomani sarà ancora ancorato da quel prezzo. Ecco, allora a quel punto lì invece dovremmo svincolarci da quella logica lì. Leggevo anche un capitolo sul valore della pazienza nell'investimento, Maurizio. La pazienza aiuta comunque. La pazienza aiuta. Guardi, io ho visto proprio all'inizio di quest'anno delle persone distruggere tutto quello che avevano fatto. Nel senso che i portafogli avevano i mercati sono scesi del 30%, c'erano dei portafogli con dei 2,5-3% di perdita, subito grande emotività, la pazienza non c'è, si pensa che in quel momento lì ci sia la fine del mondo e quindi si va. Allora, nel libro viene spiegato bene come cercare di trovare delle aziende con dei bilanci solidi, con scarso indebitamento, e quindi a quel punto lì bisogna posizionarsi, lasciare che facciano la loro redditività, le abbiamo anche selezionate perché hanno dei buoni dividendi, stabili nel tempo e così via. Avere pazienza, non guardarle, lasciarle lì. Allora, c'è un ascoltatore, questa è una domanda dal classico milione di dollari, che richiederebbe di essere presa e poi cominciare a fare da questa un ciclo di 12.000 puntate, perché non possiamo certo esaudire la curiosità di questo ascoltatore in 30 secondi, ma volendo, intanto io qua mi arrabbio, giocare in borsa senza rivolgermi ad un esperto, cosa devo fare per informarmi se non voglio andare in banca? Prima cosa, io vorrei che voi operatori del settore cominciaste a cancellare dal vostro gergo, anche se non lo usate più voi, ma il tema è che lo usano più appunto le persone normali, il tema del giocare in borsa. Questo concetto come facciamo a cancellarlo dalla testa delle persone? Con i soldi non si gioca, perché significa giocare con la vostra famiglia, con il vostro stipendio, con i soldi che vi servono per mandare avanti la baracca. Come possiamo fare a cancellare questo termine dal gergo delle persone? Purtroppo ci vuole pazienza, nel senso che si dovrebbe proprio fare formazione fin dall'inizio, fin da quando si è nelle scuole. E oggi io credo che su questo anche una responsabilità ce l'hanno, istituzioni bancarie, cercare di fare formazione alla gente. Perché se no, voglio dire, in ogni caso i mercati sono diventati difficili, è molto difficile ed è facilissimo buttare al vento i sacrifici di una vita. Allora io credo che a tutti, anche tutti gli investitori istituzionali che sono qui presenti a Rimini, ecco, dovrebbero porsi il problema di fare formazione. E poi leggetevi anche qualche buon volume, a cominciare dal manuale dell'investitore consapevole di Maurizio Mazziero, Gabriele Bellelli e Andrew Lawford. Grazie Maurizio per essere stato con noi, con tutti questi movimenti sull'oro, ti richiamiamo presto, preparati. Va bene, grazie. Grazie. Adesso è già tempo di andare a sentire le informazioni sul traffico, sono le 11.45, andiamo. E poi vi invito a fare una cosa. Se amate una donna, portatele al mare e lasciate che il sole la baci. Poi vi racconto perché. Cuore e denari. Allora vedi, vuol dire che ti voglio bene, ti ho portato al mare, perché il mare c'è, il sole manca, un po' di colore, ma arriverà. E sarà bello lasciarsi baciare e abbandonarsi al pensiero che quel bacio ci allunga la vita. Allunga la vita soprattutto a quella delle donne, d'altronde il sole sa scegliere bene. In linea con noi abbiamo il professor Giampiero Girolomoni, direttore della dermatologia di Verona e presidente della Società Italiana di Dermatologia. Buongiorno professore. Buongiorno. Il sole non ce l'ha portato, però ha una buona notizia che può raccontarci, perché c'è questo studio che ha dimostrato che il sole non solo fa bene, ma fa bene in modo particolare alle donne, capace di allungare la vita. Ma dato che sul sole ne abbiamo sentite di tutti i colori, ci racconti bene che cosa dice questo studio e ci dia poi delle indicazioni pratiche. Certo, lo studio è stato fatto sulle donne, uno studio iniziato nel 1990, un studio svedese che ha coinvolto più di 30.000 donne, e dimostra che le donne che hanno una esposizione intensa al sole hanno sostanzialmente una sopravvivenza maggiore, calcolata tra 0,6 e 2,2 anni, e in relazione al fatto che queste donne hanno una minore incidenza di eventi cardiovascolari come infarto e ictus. Quindi questa è la notizia, si può dire questa buona. È la notizia, però farà bene anche agli uomini, no? Perché certo. La sente un po' giù di morale, professor Girolomoni, farà bene virus, anche a lei. I virus non risparmiano anche i professori. Vero, anche i professori. Senta, professore, ma allora, però, gli svedesi ci dicono che fa bene alle donne, allunga la vita, ci protegge il cuore delle donne, eccetera. Per anni, però, ci è stato detto, attenzione, l'esposizione al sole, i tumori della pelle. Ecco, come si fa? Sembra una coperta un po' corta. La raccomandazione è prendetelo, ma con moderazione, protetti, eccetera. Allora, come si fa a mettere, no, a prendere il meglio le due cose. Bravo. È vero, il sole può avvenire anche i tumori della pelle, dipende dalle caratteristiche della pelle di quella persona, quindi ogni persona deve regolarsi come esporsi in base alle proprie caratteristiche, alle proprie esperienze. Quelli di carnagione chiara devono esporsi poco, quelli di carnagione scura possono esporsi a volontà. La carenza di sole, vedi, io e Deborah siamo... Tu sei poi anche più scurone di me. Sì, perché io sono verdognola. Quindi, la carenza professore... di sole può essere in parte ovviata implementando l'assunzione di vitamina D. Perché uno dei motivi per cui il sole fa bene, il motivo principale noto ad oggi, è perché induce la sintesi di vitamina D nella pelle, e la vitamina D, oltre a far bene alle ossa, fa bene al sistema cardiovascolare, modula il sistema immunitario. E probabilmente questo è il meccanismo principale per cui il sole, preso adeguatamente, allunga la vita. Quindi possiamo ovviare al sole prendendo vitamina D. Professore, lei ha parlato della vitamina D, che è qualcosa di più di una vitamina. Certo. Ecco, negli ultimi tempi i medici adesso ci dicono di misurare i livelli di vitamina D, perché noi che viviamo nel paese del sole spesso siamo carenti di questa vitamina. Esatto. Ecco, anche una signora che è venuta a trovarci mi dice proprio così. Allora, com'è possibile noi, il paese del sole, essere carenti di questa? Perché soprattutto nei mesi invernali l'esposizione della nostro corpo, della nostra pelle al sole è molto limitata, e nei mesi invernali che vanno da settembre, da ottobre a marzo si realizzano spesso dei livelli carenziali di vitamina D. Inoltre la produzione di vitamina D si riduce con l'età, quindi le persone over 60, diciamo, tendono a essere di per sé carenti di vitamina D anche se si espongono al sole. E ognuno ha le sue proprie capacità di produrre vitamina D, quindi non tutti siamo forti produttori. Però basta poco perché l'organismo sia in grado di sintetizzarla, sì, anche poco, un quarto d'ora al sole. Ma se io mi metto la crema, la domandona è questa, ma se io mi metto la crema per espormi al sole perché, che ne so, mi viene l'eritema, eccetera. Allora, la vitamina D la produco ugualmente oppure la crema solare fa una sorta di schermo e quindi sono in qualche modo... ma io gliela faccio perché so che lei è preparato, perché è un prof. Esatto. Sì, in effetti è una questione esattamente diretta. Cioè, se ci proteggiamo dal sole, riduciamo la produzione di vitamina D. Quindi la produzione di vitamina D è direttamente correlata con la nostra esposizione al sole. E allora, scusi, se io voglio prendere dal sole tutti i vantaggi, sto un quarto d'ora, dieci minuti, un quarto d'ora, quando naturalmente il sole non mi frigge il cervello, senza protezione, e poi la metto. Potrebbe essere... C'è un ampio margine, per ognuno di noi c'è un amplissimo margine di esporsi al sole senza provocare un eccessivo danno alla pelle. Quindi ognuno di noi sa i propri margini, è come nel cibo, come nell'alimentazione, dove mangiare molto fa male, mangiare poco o nulla fa peggio, però tutti noi sappiamo i nostri limiti i nostri intervalli. Se, ecco, se non li abbiamo ben chiari potete scriverci con tutti i vostri dubbi sulla vostra pelle, eccetera. Ma professore, prima di salutarci, per avere chiaro il nostro livello di vitamina D si può misurare? Come può misurare. Si misura? Ecco, si misura c'è un esame. Nel sangue regolarmente. Teniamo presente livelli? Che l'80... Come? Che valore dobbiamo aspettarci di avere? Il valore di vitamina D sono riportati nel il valore di normalità è tra i 30 e i 100 nanogrammi per millilitro, ma è riportato in tutte le analisi che si vedono. Non abbiamo paura di sbagliare. Ricordiamoci che la vitamina D, la componente alimentare minima, solo il 20% della vitamina D che noi abbiamo è di origine alimentare, perché è presente negli alimenti che di solito scartiamo. È una vitamina presente nei grassi animali, è presente soprattutto nei pesci grassi come il salmone, la ringa e anche nel grasso degli animali, quindi noi, è la parte di alimento che di solito non mangiamo, quindi cerchiamo, ma nei pesci grassi si trova salmone e ringa anche nel pesce, sono tra i più ricchi. Nei paesi nordici dove c'è molta carenza perché il sole ce n'è poco, certo, l'hanno aggiunto, lo aggiungono nel latte come. E poi qua però sul latte apriamo poi un altro capitolone, professore, che qua ci vogliono 8 IT Forum, ma ci occuperemo anche del latte. Professor Girolomoni, io la ringrazio per essere stato con noi, allora 10 minuti, un quarto d'ora senza crema per fare attivare la vitamina D, poi ci mettiamo la crema, se abbiamo dei dubbi chiamateci e scriveteci. Professore, grazie, speriamo di averla presto in studio con noi. Grazie. Adesso noi abbiamo, grazie, abbiamo ancora un minutino allora. Ma anche forse un po' meno, solamente per salutare tutte le persone che sono venute a trovarci qui all'IT Forum. E sono tanti. È vero, infatti. Si dispiaceranno che domani non ci siamo. Ma domani non c'è neanche la manifestazione. Va bene, quindi allora noi domani... Vedrai che arriverà il sole, adesso che andiamo tutti via. Dopo e che possiamo la farci la Nove Colli. Senti, ringraziamo anche tutta la squadra che è venuta in esterna oggi. Allora, vai, Marco. Comincia Marco Lombardo. Paolo Corleoni, Alessio, dico non mi ricordo mai il cognome, Bertucci. Me lo dovete scrivere perché lo sapete, lui che ci porta le stelle, ed Elena Ligios che se la ride tutta naturalmente fino alla fine. Grazie. Grazie. A lunedì. A lunedì.